presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Una A per amare in sua presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Una freccia all'improvviso mi colpì senza aspettare. Cupido mi disse è giunta la tua ora di amare. Non puoi rifiutare, non mi fece fiatare. Ma non mi disse che andavo incontro all'arma letale. Il peggior dolore ma dentro una gioia immensa. La soluzione è semplice ma in fondo più complessa. Non la brioche ma tutti nel pane quotidiano. Che le cose eterne sono quelle che più speriamo. Si accende un allarme che a volte non si sente. Una malattia che colpisce troppa gente. Fa vivere l'amaro ma dolcemente. Facendoti vivere la tristezza allegramente. Ci sono mille strade ma chi non sai scegliere. Chi perde quella sbagliata si rischia di perdere. È un gioco d'azzardo ma non devi azzardare. Se si perde tutto si può sempre rimediare. Vi do una A per amare in sua presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Vi do una A per amare in sua presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Succube dell'amore, chi l'avrebbe detto? Paragonabile al destino perché maledetto. Omicidio nel petto, il più peggior difetto. Ma se quello giusto, fidati al sogno perfetto. È l'incubo notturno che ti tiene sveglia. Uno splendido pensiero che ti addormenta. Il magnifico regalo che ti accontenta. Il più cattivo mostro che ti spaventa. Dentro di te è l'urlo più silenzioso. Forse è il povero ma più prezioso. Può essere quello che vuoi, devi subirtelo. Ma quando arriva ti cattura senza dirtelo. Per qualcuno è un sogno proibito. A volte ti fa toccare il cielo con un dito. Se non c'è subisci il male interiore. Ma quando è vero sa essere il migliore. Vi do una A per amare in sua presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Vi do una A per amare in sua presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Vi do una A per amare in sua presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Vi do una A per amare in sua presenza. Una E per morire in caso della sua assenza. Una O per odiarlo in presenza di contraddizione. Una L e una E per respirare ogni emozione. Vi do una A. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità, la felicità.